sarà un bellissimo tramonto. E a volte quel volto così felice lo si constata a lungo. A certi defunti mettono un fazzoletto sulla faccia perché sono morti quasi disperati. Oh, ma com'è bello il volto di chi muore nel bacio del Signore. Beati morti qui in Domino Moriuntur. Hanno fatto la pernottazione e l'hanno fatta bene. Non è un passo, un salto nel vuoto, è un volo. Altro che missilistico, un volo in Dio. E auguriamoci che sull'annunzio funebre si possa dire: è morto nel bacio del Signore, confortato dai sacramenti della Chiesa, nel bacio del Signore. Questa domanda è la cosa più interessante che sto chiedendovi in questo corso di esercizi, ogni sera. Dopo che vi siete anche coricati, oggi ho pernottato il mio posto per le ferie eterne. Dove dormirò la prima notte? Dice Valentino Cieco. Là, mi diceva mia mamma, dormirò per sempre. Requiescati in pace. Auguriamo a un defunto. Dormire nelle braccia di Dio come da bambini dormivamo, nelle braccia di papà o di mamma. Dio è padre e anche madre, infinitamente più buono di papà e di mamma. Fate questo proposito. E vi aggiungo anche, finisco, Monsignor Angelo Grazioli, mio professore di teologia morale, una degnissima figura di sacerdote veronese, andato a Trento a predicare la missione a tutta la città di Trento, lui con alcuni sacerdoti di Verona, lasciò questo ricordo a tutto Trento dopo 8 giorni di predicazione. Fedeli di Trento, acquistatevi appena potete un bel crocifisso, grande per la vostra casa, o piccolo per la vostra persona, tenetelo con voi, o nel taschino, o al collo, o sotto il guanciale. E ogni sera un bacio. Prenotatevi il posto, come quel ladrone pentito, per aver guardato lui e scambiato con lui 2 parole, mentre agonizzava ancora, si è pernotato il posto nel paradiso. Le parole di quel ladrone pentito erano come un bacio. Ricordati di me, Gesù di Nazaret. Tu sei buono, io un farabutto. Ricordati di me, che ho fatto il farabutto. Quel ricordati è un bacio. E lui gli rispose, oggi con me, paradiso. Espirato prima lui, sì, è morto prima Gesù. Gli altri sono morti dopo che furono spaccate loro le ginocchia. A Gesù non spaccarono le ginocchia perché era già spirato in tempo per andar su dal Padre nostro e Dio nostro a preparare il posto ad un ladro pentito in extremis con il crocifisso accanto. Ieri è venuto a trovarmi un amico che ha 45 anni che sposo, che ha fatto la sua famiglia. Ricordo come è morto suo papà, amico intimo di mio zio Don Francesco, parroco di Gargagnaco. L'hanno chiamato una mattina, Don Francesco, venga, perché questo tale, il nome l'ho sulla punta della lingua, è morto. Oh, lo zio in un baleno era già pronto e via a trovarlo. E che dolore ha provato. Eravamo d'accordo che appena stavi male mi venivi a chiamare. Io sarei venuto di giorno di notte. Sono arrivato tardi, però muovendo il letto si sono accorti che sotto la foretta aveva un crocifisso di questa misura, quasi di una spanna. E i figli presenti, uno è venuto a trovarmi appunto ieri, hanno detto: Don Francesco, sapevamo che nostro papà non si coricava mai senza stampare un bacio sonoro sul crocifisso. E certamente l'aveva fatto anche la sera innanzi. A queste parole lo zio si sentì come rinascere. Oh, meno male, meno male, meno male che è morto bene, come il ladrone volgendosi a lui. Io non dico perché voglia che voi comperiate da dove, ma quando avete quattro soldi, noi l'abbiamo come emblema qui, un crocifissino qui, sul giubbino, e quando noi lo mettiamo, certo diamo un bacio, ma poi l'abbiamo anche in camera, in casa, un crocifisso. Sono andato a comprarne uno a Ordisei venerdì scorso, di grandezza naturale, in legno. Non occorre che abbiamo in casa un crocifisso così grande, ma in tasca o al collo, sotto la foretta, l'ultimo bacio, la prenotazione in extremis, la prenotazione all'ultimo momento, la faccio adesso. Oggi, giornata di burrasca, oggi ho offeso tutti, ma in questo momento, Signore, lascia che ti baci, ricordati di me dal tuo regno, e sentiremo anche noi quell'eco: il posto è pronto, mi sei costato sangue, ma volentieri l'ho sparso tutto per comperarti un posto nella casa di Dio. La nostra seconda casa è la casa di Dio. Fissiamo l'appuntamento lassù, che nessuno di noi qui presente. Quando Dio vorrà, ma tutti saremmo venuti al mondo altrimenti invano. È inutile essere nati uomini se poi non lo si conquista, non ci si abbraccia a Lui per l'eternità. Ma se qui siamo tutti uniti, c'è un disegno di Dio. Ci troveremo tutti uniti, certamente, non per 3 giorni e mezzo di ferie, per i secoli eterni, per i secoli dei secoli, sempre.